e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, oggi guardiamo con grande attenzione al nostro calendario, non è ancora a tempo di quello dell'avvento, ma tra poco lo sarà e noi siamo pronte con un bel progettino che coinvolgerà anche i nostri ascoltatori. Però, per la pagina di Cuore, tra poco con Nicoletta ci spiegherà perché, lo faremo per la pagina di Cuore, lo facciamo anche per il tema di denari con cui apriamo la puntata. Domenica scatta l'obbligo di avere montati pneumatici invernali o in alternativa catene da neve. E quindi è tempo di fare un punto della situazione. Chiaramente ad ogni stagione non lo facciamo, in primavera si fa il procedimento contrario. Avete già fatto il cambio, avete sostituito le gomme estive con quelle invernali. Quali sono i vostri dubbi? Avete già prenotato l'appuntamento con il vostro gommista di fiducia? Come ogni anno siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande all'800 24 00 24. Anche se con questo clima l'inverno sembra ancora lontano, proprio questo è il momento giusto per pensare a questo cambio. E nella seconda parte del programma noi non cambieremo gomme ma abitudini e stile di vita. Raccogliamo l'invito della Giornata Mondiale del Diabete, che quest'anno ha uno slogan particolarmente incisivo: muovi i fili del diabete. Un invito al cambiamento rivolto alle persone con diabete, uno stimolo a diventare soggetti attivi di protezione della propria salute, muovendo per l'appunto i fili e le leve che possono migliorare la gestione, il controllo della malattia e quindi la qualità della vita. Ne parleremo diffusamente, ma muovi i fili del diabete è un invito anche alla prevenzione. 800 24 00 24 per prenotare i vostri interventi e per parlare con i nostri esperti. Doc, ho bucato! Riesci a tornare ai box? Sì, credo di sì. Ehi, bandiera gialla, rientra. Non fare altri danni, ragazzo. È incredibile! Il pit stop più veloce che abbia mai visto. Sì, ma devi entrare in pista prima della pace car. E non sarà semplice. Questo era Cars, ci vorrà un pit stop molto rapido per chi ancora non ha montato pneumatici invernali e vuole mettersi in regola nei tempi giusti. Ho appuntamento il 18 novembre, quindi mercoledì, speriamo di non essere pizzicata. Chissà che cosa mi succederebbe se fossi pizzicata da qualcuno che trova le mie gomme magari non propriamente a posto. Le ordinanze che prevedono l'obbligo di circolare con le gomme termiche o in alternativa con le catene a bordo scattano domenica 15 novembre, dopodomani. Noi oggi a Cuore Denari torniamo a fare il punto su tutte le regole, a darvi i nostri consigli per la sicurezza e il miglioramento delle performance del vostro veicolo e naturalmente qualche dritta sui costi che si possono sostenere in questi casi. Voi intanto iniziate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24 perché, lo abbiamo capito anche negli anni passati facendo puntualmente questa trasmissione, ci sono anche delle condizioni normative diverse a seconda della città o della regione in cui si abita. E la nostra pagina di denari, perché ci sono in ballo costi da sostenere e possibili sanzioni, l'aspetto economico viene sempre in secondo piano rispetto a quello della sicurezza, non ce lo dimentichiamo. E così Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, ben ritrovato, ormai potrebbe fare il conduttore al posto nostro. Addirittura, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ha una bella voce, so che le piacerebbe, insomma, grande padronanza dell'argomento, sa. Ma non esageriamo, a ognuno il suo. Allora, no, senta, risponda subito alla mia domanda. L'obbligo parte domenica. Io cambio le gomme mercoledì. Che cosa mi potrebbe succedere in quei 3 giorni di vacazio? Ma io mi auguro che non succeda nulla, visto che c'è una condizione climatica tale per cui credo che le forze dell'ordine applicheranno con buon senso l'inizio del periodo. Il periodo è il 15 di novembre, quindi è un obbligo di legge laddove ci sono ordinanze operanti, ma credo che per i primi giorni, viste le temperature, come è sempre successo, certo, anche in altra circostanza, si comporteranno a modo. Correrei un po' più rischi se dovesse improvvisamente imperversare una bufera di neve su Milano, allora in quel caso dovrei essere un po' più attenta a circolare. Direi. Ma diciamo che è un'eventualità abbastanza remota, mi sembra. Ci sono già delle domande. Ci sono già delle domande al 349-238-6666. Rapido. Lorena ci scrive se l'obbligo è anche per le moto. Assolutamente no. Le moto non sono soggette a questo obbligo, le moto però nel caso di neve a terra o anche previsione di precipitazione nevosa non possono circolare. Devono stare a casa. Esatto, chiuse in garage. Dottor Bertolotti, allora iniziamo definendo la platea degli interessati a questo cambiamento. C'è una direttiva ministeriale, ma per i provvedimenti di solito guardiamo le singole province. Lo scorso anno abbiamo avuto un interessamento di 59 province su 107 in Italia, centinaia di comuni e la stragrande maggioranza ritratti autostradali, coprendo così tutte le regioni d'Italia. Quest'anno chi è interessato a questo cambio? Ma sostanzialmente le zone sono quelle dell'anno scorso, non tutti hanno credo rinnovato, perché magari lo lasciano e lo fanno proprio a ridosso dell'entrata in vigore del 15 di novembre, però sostanzialmente tutti i periodi, tutte le zone, quindi autostrade, non solo le province, perché ricordiamo che queste ordinanze vigono laddove chiaramente sono state attivate, nelle province, più della metà delle province d'Italia, nei comuni e anche regioni come la Valle d'Aosta, che già dal 15 di ottobre ha operante la sua ordinanza, ma anche le autostrade e anche l'ANAS, che proprio due giorni fa ha dato indicazioni riproponendo tutte le ordinanze dello scorso anno. Ecco, ma mi faccio capire, allora abbiamo la direttiva ministeriale, dicevamo, il ministero incaricato di emanare questo provvedimento, quello dei trasporti? Allora, il provvedimento di legge è all'interno del codice della strada, quindi Ministero dei Trasporti, però chi ha titolo a emanare le ordinanze sono i proprietari o i gestori delle strade. Quindi sono solo loro che autonomamente non hanno nessun obbligo, ma se vogliono attivare una prevenzione e una disciplina nel periodo invernale lo possono fare, e a questo punto devono attenersi alla direttiva ministeriale che impone un'omogeneità su tutto il territorio, proprio per evitare, perché noi veniamo da un periodo in cui ciascuno, proprio perché aveva titolo a emanare delle ordinanze, le faceva a suo piacimento, con il risultato che c'era una confusione enorme tra gli automobilisti. Però è anche vero che la condizione delle strade siciliane è estremamente diversa da quella toscana o da quella lombarda, quindi potrebbe essere anche ragionevole questa disomogeneità, diciamo, di regolamentazione, no? Ma proprio per questo chi è il titolare, proprietario, gestore della strada siciliana può non fare l'ordinanza e quindi lasciare chiaramente il tutto libero senza nessun problema. Ma attenzione, anche in Sicilia dipende dalle zone, perché in Sicilia c'è l'Etna dove si va a sciare. Dove sono i vincoli più stringenti a livello territoriale, dottor Bertolotti? I vincoli sono gli stessi in tutte le parti d'Italia. Ormai non abbiamo più una zona di concentrazione delle ordinanze. Se un milanese parte da Milano e vuole andare al sud, sicuramente troverà, per come si muove ad est, ad ovest, a sud, a nord, anche se a Milano non vige l'ordinanza, quindi la provincia di Milano è stata la prima l'ordinanza, ma poi non l'ha confermata, mentre tutte le altre tutte le altre province attorno hanno, diciamo, le ordinanze. Quindi il milanese è un po' come, diciamo, un soggetto che vive in una riserva indiana che deve rimanere a circolare, no? nel proprio ambiente, perché appena mette la testa fuori, zac. Quindi circola vicino a casa tu. Allora, abbiamo anche viaggio su Twitter. Adesso guarda, lo sentiamo senz'altro, ci leggerai il messaggio, vedo anche dei simpatici messaggi rivolte alle donne alla guida, e quindi noi respingiamo al mittente quello che dice Luigi, ma lo salutiamo con affetto. Le regole uguali per tutti o differenti a seconda del territorio in cui si abita? Come faccio a sapere come viene disciplinata la situazione del territorio in cui abito, dottor Bertolotti? Beh, molto semplicemente, chi vuole può andare sul nostro sito, che è un sito libero, un sito di servizio, www.pneumaticisottocontrollo.it, e a questo punto lì troverà per ogni zona d'Italia, per ogni provincia, per ogni comune, regione, autostrada e quant'altro, avrà delle indicazioni di se quel tratto stradale è coperto o non è coperto da ordinanze. Certo. È un sito di servizio, addirittura ciascuno può scaricarsi anche il provvedimento specifico dell'ente che ha predisposto il provvedimento, quindi ha tutta la chiarezza. Ovviamente ci sono anche altri siti che danno informazioni, ma credo non così complete come le nostre. Ecco, con molta modestia, naturalmente. Lo dico perché è un grande lavoro. Si imbroda. No, ma per una semplice ragione. Ve lo dico per una semplice ragione. Perché ci avete lavorato tanto. Ci abbiamo lavorato proprio tanto. E non è facile ottenere anche le copie dei provvedimenti. Nel nostro sito noi non pubblichiamo nulla che non sia accompagnato da un provvedimento di legge. Ottimo. Allora, noi vi aiuteremo a far circolare queste informazioni. Naturalmente metteremo il vostro sito e tutti i link ai quali è possibile accedere per controllare queste informazioni, sia su Facebook che su Twitter. Intanto le segnalo anche che c'è un ascoltatore che chiede chiarimenti su un nostro altro grande cavallo di battaglia, che sono le gomme Mud & Snow, quelle per tutte le stagioni, come si dice. Come un po' Cuore Denari. Esatto, le Evergreen. Ieri abbiamo fatto gli investimenti Evergreen per tutte le stagioni, oggi andiamo c'è sempre un fil rouge. Esatto. Che caratteristiche hanno queste gomme, dottor Bertolotti? Ma allora, innanzitutto questi pneumatici, che chiamarle pneumatici, gomme, non va gomme, chiamatele come ritenete più opportuno. Comunque, la scritta M+S è la scritta che identifica le gomme invernali. Ma se si vuole avere la certezza di avere delle gomme invernali di alte prestazioni, occorre far seguire, anche se non è un obbligo di legge, alla scritta M+S un pittogramma alpino, così si dice. No, ma Nicoletta lo sapeva, ma ci poteva mai credere? Che ha fatto il disegnino con la mano. Il disegnino, ma fantastico. Vinco qualcosa. L'importante è che sia una montagna a tre picchi. Ne abbiamo visti anche che qualcuno ne ha disegnati quattro, sono i classici tarocchi. Quindi attenzione, una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al centro, che non è un disegnino qualsiasi, ma che identifica e contraddistingue un prodotto che ha superato un test omologativo, quindi che è idoneo ad alte prestazioni, a severe condizioni invernali. Non è un caso che noi abbiamo fatto questa puntata di venerdì, è la giornata in cui si viaggia di più probabilmente, con queste belle giornate chissà quanti oggi decideranno di rifare una bella gita fuori porta. Li andiamo a sentire? Volentieri. È il momento del traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... e denari. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo. Questa canzone è l'incubo di Fabio Bertolotti quando viene a trovarci, gliela pioppiamo sempre, ma alla e io ribadisco sempre il solito lui. Aneddoto che la cantavo quando andavo in colonia con il pullman nel Medioevo. Cambio delle gomme, ne stiamo parlando oggi a Cuore Denari. Dottor Bertolotti, completiamo il quadro delle date, l'obbligo che scatta questo fine settimana, fino a quando perdura? Possiamo tenerle montate ancora per un mese, però, no? La vecchia modalità, chiamiamola così. Allora, inizia il 15 di novembre, termina il 15 di aprile. Se le gomme invernali che ho montate sono esattamente di dimensioni e di caratteristiche prestazionali, come da libretto di circolazione, carta di circolazione, io posso circolare tutto l'anno. Quindi non ho nessuna necessità, da un punto di vista giuridico, non da un punto di vista tecnico, posso circolare liberamente tutto l'anno. Ma se invece il buon senso ovviamente dice che non giro e non cammino con dei sandali in inverno e di conseguenza questo non è più tanto vero. Esatto, sì? perché la moda sta cambiando. Esatto. Vabbè, insomma, come se gli uno stivali vuole... estivi che io ho peraltro. Vabbè, insomma, in linea di massima questo un succede. Aggiornamento sulle tendenze. Chiedo scusa, ma non sono allora aggiornato su queste strane cose che non mi appartengono. Non si portano più le calze, si portano i sandali con il piede perfettamente aperto. Avremo tanti influenzati, ma va bene uguale. Poi ci pensa Nicoletta sempre queste persone. Bene. Quindi insomma lei dice non si porta il sandalo teoricamente in inverno. Questo che cosa significa per significa, quello che per quanto riguarda i pneumatici, significa che occorre avere gomme adatte al periodo stagionale per avere ottimizzate le prestazioni del proprio veicolo, la tenuta della strada e quant'altro. Come è vero che i pneumatici invernali vanno meglio di quelli estivi quando fa freddo, non quando c'è la neve, quando fa freddo, cioè quando le temperature cominciano a scendere sotto i 7 gradi, è altrettanto vero che quando le temperature sono superiori ai 20 gradi, è meglio un pneumatico estivo rispetto a un pneumatico. Quindi da Questo è l'argomento, date le temperature di questi giorni. Da 7 a 20 gradi sostanzialmente, quindi non è assoluta, questo è, sono diciamo delle indicazioni, non sono delle temperature diciamo limite, ma questo per far capire che c'è un range molto ampio dove entrambe le soluzioni offrono caratteristiche prestazionali simili. Quindi qualcuno che va affermando che con i pneumatici invernali montati ora c'è un rischio piuttosto che ci sono un decadimento delle prestazioni, non è così e certamente non c'è alcun pericolo per la sicurezza stradale. Così allora, rispondiamo a tanti ascoltatori che ci sottolineavano proprio questa domanda di occuparci di questo. Temperature elevate, come ci scrive un ascoltatore, e gomme diciamo per invernali per l'inverno. Allora, Salvatore da Milano, ritorniamo sulle gomme per tutte le stagioni. Benvenuto, Salvatore. Sì, pronto, mi sente? Sì, sì, certo. Sì, buongiorno. Volevo ringraziare innanzitutto voi perché mi fate compagnia spesso in macchina e il vostro modo di condurre mi mette proprio una bella serenità, specialmente in auto. Oh, bravo, guidi con prudenza e andiamo alle sue gomme. Ecco. Ah, sono fermissimo, sto ascoltando voi. Ascolti, volevo chiedere al vostro ospite, mia figlia, ho cambiato le gomme a mia figlia un paio di mesi fa che erano sponciate e il gommista mi ha consigliato di metterle 4 stagioni. Visto che mia figlia ha permesso, io sto a Milano e lei non gira molto, non va molto fuori, e mi ha consigliato questo. Volevo sapere dal vostro ospite se... Che cosa ne pensa? È stato un buon consiglio. Bertolotti. Ma allora, 4 stagioni, cioè termini come 4 stagioni, all season, multipurpose, all weather, gomme estive che vanno bene in inverno, anche in inverno, gomme invernali che vanno bene anche in estate. Allora, sono, qual diciamo, è la soluzione ideale per una ragazza di questo tipo? Sono terminologie commerciali, sono termini commerciali a cui ciascun costruttore del pneumatico attribuisce contenuti tecnici e prestazioni diverse. Per essere sempre molto chiari, il consumatore, l'automobilista, noi dobbiamo andare a controllare se c'è una scritta sul fianco M+S, se c'è questa scritta è quella gomma parificata a un pneumatico invernale, quindi in caso di ordinanze non ci sono problemi, se verremo fermati non dovremo non subiremo sanzioni e quant'altro. Quanto alle prestazioni, non v'è dubbio alcuno che i pneumatici, diciamo, intermedi, chiamiamoli per mettere insieme tutta la categoria, hanno delle prestazioni intermedie e quindi come tali non sono il meglio in assoluto né in estate né in inverno. Il consiglio nostro è sempre quello di avere prestazioni specifiche stagionali, ma la soluzione intermedia può essere, diciamo, una soluzione per chi si trova a circolare in un ambiente urbano, fa pochi chilometri. Io mi chiedo, dottor Bertolotti, pur comprendendo pienamente la ragionevolezza delle sue considerazioni, allora per quale motivo l'industria deve attrezzarsi ad inventarsi una gomma che poi venda appunto per tutte e quattro, valida per tutte e quattro le stagioni? Se poi naturalmente voi esperti del settore siete tutti all'interno di questo mondo industriale, raccomandate poi nello specifico di utilizzare in determinate stagioni quelle gomme che vanno bene per le prestazioni adatte a quella stagione. L'industria si attrezza sempre non solo in funzione di parametri di sicurezza, e lo fa sempre, quindi la sicurezza è comunque un must per tutte le tipologie, ma si attrezza anche in funzione delle richieste e delle esigenze del cliente. Quindi laddove c'è un cliente, si identifica una nicchia di mercato importante di clienti che vogliono avere un'unica soluzione, a questo punto si trovano, si cercano di trovare e si possono trovare. Basti pensare alla Formula 1. La Formula 1 non esiste una gomma, esiste una diversa tipologia di gomma a seconda della condizione dell'asfalto, della temperatura e quant'altro. Ma lei ha la figlia del nostro ascoltatore che più di tanta strada non fa, che rimane a Milano, la gomma intermedia. Devo chiudere, ne parliamo dopo le 12. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Cuore e denari. Allora forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino 5 punti, chi vede prima un cavallo 10 punti. Ehi, ma che succede qua? Che succede? Niente, mi vende tutta la macchina sulla destra. Mi raccomando, vai piano, fuori. Andiamo piano, sì, aspetta che adesso accosto. Anteriore destra, come volevasi dimostrare. Vabbè, adesso comunque senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per i servizi di soccorso ASCI? Ma desveglia di tesoro! Eh sì, gli imprevisti in auto sono sempre in agguato, anche per i più meticolosi come il nostro Furio, però con una buona manutenzione possiamo ridurre al minimo i rischi e garantire la nostra sicurezza. Allora oggi a cuore denari è tempo di parlare della manutenzione del cambio periodico delle nostre gomme, dei pneumatici, dagli estivi all'invernale, questo è il momento giusto per fare questo cambiamento. Da domenica scatta l'obbligo pneumatici invernali, è sempre con noi Fabio Bertolotti e voi siete in tanti stamattina con le vostre domande all'800 24 00 24. Speriamo di aver archiviato ormai il tema gomme per tutte le stagioni. Andiamo, dottor Bertolotti, alle altre domande dei nostri ascoltatori. Massimo da Milano è preoccupato che il 15 novembre vadano tutti esattamente in quel giorno a chiedere il cambio. Massimo, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, volevo chiedere due cose. La prima questa. Siccome c'è una data ben precisa, se tutti dovessero andare al gommista quel giorno... non trovi posto. Infatti c'è tutti... una certa tolleranza. Sì, grazie. Seconda domanda? La seconda domanda è questa. Io ho montato delle gomme invernali tempo fa. Il gommista mi ha detto, guardi, per il suo tipo di gomma ne metto un tipo che però non è corretto. Cosa volevo dire? Che le case automobilistiche dovrebbero montare dei cerchioni che vadano bene sia per quelle invernali che per quelle estive. Guardate la favola, che qua io ho montato con l'invernale, sono andato a una revisione e non me l'hanno passata perché dicevano che quelle gomme non erano omologate. Dopo ho rimesso su quelle estive e me l'hanno passata. Esatto, se qualcuno le faceva una multa doveva farla pagare al gommista. Massimo, allora sentiamo cosa ci dice Bertolotti. Giorni di tolleranza rispetto a questa scadenza del 15 novembre, allora nessuno ci punta la pistola alla tempia, immagino. No, non, ma innanzitutto l'indicazione è precisa, questo non significa... di obbligo, questo non significa che uno debba andare a montare le gomme il 14, ma può farlo molto tempo prima. O comunque in quei giorni là, ma ammettendo che le condizioni climatiche siano... Ma se le condizioni sono diciamo quelle che sono, non credo diciamo che da parte delle forze dell'ordine, almeno nei primi giorni. Però la buona regola è non aspettare l'ultimo momento, e sono ormai da tempo che i gommisti stanno montando le gomme invernali, chiamando anche i loro clienti, che peraltro hanno già lasciato in deposito la scorsa, quindi non è una vendita, ma è un servizio che viene dato. C'è un grande capitolo, c'è un grande capitolo che è proprio quello del deposito delle gomme, appunto quando si fa il cambio del famoso treno di gomme vecchie rispetto a quelle nuove. Allora, intanto, se dovessimo chiedere questo servizio al gommista, quanto ci può costare generalmente, dottor Bertolotti? Le cifre sono evidentemente libere, quindi diverse, però 10 euro a gomma, 10-15 euro a gomma per può questo essere piccolo una cifra. Affitto. Sì, però questa le cifra... Le possiamo portare a casa a tenerle in garage? Assolutamente sì, però occorre seguire alcune indicazioni precise in termini di stoccaggio, e ancora una volta sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it ci sono le indicazioni, le raccomandazioni su come stoccare anche in maniera domestica le gomme per evitare che si usurino piuttosto che si deteriorino. Certo. La seconda parte della domanda di Massimo sostiene che il suo gommista gli ha montato dei pneumatici che non erano esattamente regolari secondo quel tipo di auto. Ho molto sintetizzato, l'essere in grado di farci una descrizione più professionale caso. Io penso che sia avvenuto questo, e cioè che sono stati montati dei pneumatici invernali con un codice di velocità, quindi con una velocità massima, inferiore rispetto a quella in carta di circolazione, e questo è consentito per i pneumatici invernali fino ad un codice che si contraddistingue da Q160 km all'ora. Quindi quando è inverno io posso montare dei pneumatici invernali con un codice inferiore, ma solo nel periodo invernale. Nel periodo estivo devo ripristinare il treno di gomme, certo, estive con il codice pieno, e proprio per questo il Ministero ha consentito un mese di tempo in più per queste tipologie, quindi dal 15 ottobre, proprio per consentire anche il montaggio e smontaggio. Certo, però Massimo, questa scelta del suo gommista gli ha impedito di superare la revisione. Certo, perché se io vado in revisione con un pneumatico che non è idoneo alla carta di circolazione, io ho manomesso le caratteristiche costruttive del veicolo, e non è solo un problema di revisione, ma se vengo fermato, certo, posso subire il fermo del mezzo. La lezione che traiamo da questo caso: se il gommista vi fa questa proposta non è irregolare, ma se avete un'imminente revisione da fare, magari al gommista ditelo, così vi monta il pneumatico corretto. 800 24 00 24, ancora pochi minuti di tempo da passare con noi per parlare di questo argomento. Emanuele dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per avermi richiamato. Una domanda: io per lavoro noleggio spessissimo delle autovetture nei vari autonoleggi. A volte mi si chiede se voglio le catene in luoghi tipo Milano, e queste catene sono a pagamento, quando io reputo che ci sia un obbligo di tenerle su. Certo. Esatto, volevo sapere se mi potete dare informazioni in merito, perché io mi sembra abbastanza stupido che debba noleggiare, certo, e pagare anche un accessorio per cui sono obbligato ad avere a bordo. Allora Emanuele, anche qua cambi noleggio, ma mi pare di capire che lui questi cambiamenti li faccia frequentemente e sia un po' una prassi diffusa quella di fare questa richiesta. Qui è un fatto puramente commerciale, e quindi nel rapporto consumatore fornitore di servizio. In buona sostanza può cambiare, siamo a conoscenza che ci sono compagnie che offrono il servizio completo con pneumatici invernali o in alternativa con delle catene. È chiaro che diventa quantomeno strano affittare una vettura a Malpensa, per dire, zona Milano, certo, Varese, coperta da ordinanza, senza che sia idonea a circolare. Questo è un non senso. Ecco, esatto. Faccio un controllino su questo, magari qualche bel comunicato sul vostro sito. Le abbiamo offerto oggi un bello spunto. Esatto. Nicola da Reggio Emilia, invece qua siamo passati dall'altra parte della barricata. Non abbiamo consumatori, abbiamo un rivenditore di pneumatici. Nicola, buongiorno. Reggio Emilia, lì se nevica ogni tanto... Buongiorno, intanto vi saluto e vi ringrazio di trattare un argomento che negli ultimi anni è diventato da bar e se ne sentono di ogni, e finalmente qualcuno che mette dei puntini sulle i. Ci dia il giudizio professionale, Nicola, perché sa, qua trattandolo due donne non è che siamo proprio sicure. Noi ci facciamo confortare dal dottor Bertolotti, quindi il top di gamma degli ospiti. Io mi sento, però, devo dire, preparata. È contento di come lo trattiamo? Ma certo, ottimo. Sarà contento lui di essere con due belle donne come voi. Eccolo, questo qui, sicuro. Nicola, scatta il libro subito, immediatamente un treno di libri. Nicola, no, ci dica. Io volevo solo fare alcune osservazioni. Allora, innanzitutto penso che l'unico disguido che ci può essere, vista che l'Italia è fatta di tante piccole città, province molto vicine, di conseguenza, per dire, Reggio Emilia non c'è l'obbligo, Modena c'è l'obbligo, sì, in alcuni comuni di Reggio Emilia c'è l'obbligo, in altri no. Dal mio punto di vista sarebbe meno traumatico anche per spiegare all'utente finale che non è una gomma da neve, ma come già detto in precedenza una gomma termica, ovvero che va molto meglio nel periodo nelle condizioni di clima invernale, unificare almeno per il nord, centro, insomma nelle zone, a parte le zone in cui non viene l'inverno traumatico, e invece che comunale proprio nazionale questa cosa, perché c'è molto molto caos. Lo so. Poi Nicola, guarda, ha sentito che Bertolotti ha sospirato, perché forse condivide le sue considerazioni. Sono assolutamente d'accordo, ma probabilmente andremo alla risoluzione di fatto del problema, perché la maggior parte delle ordinanze sono di natura provinciale, le province ormai scompaiono a fronte della regione. Guardi, e di conseguenza Alessandro Milan che sta controllando questa questo è questo tentativo da anni. Questo è quanto ci dicono dovrebbe succedere, proprio quindi in virtù di questo anche la competenza, quindi i proprietari e i gestori delle strade saranno le regioni e di conseguenza i provvedimenti dovranno gioco forza essere fatti a livello regionale. Quello che ci auguriamo è che poi non avvenga esattamente il contrario, che ci sia qualcuno che non estenda e quindi magari, non so, regioni come l'Emilia Romagna o la Lombardia non siano coperte da ordinanza anche se hanno zone di montagna vere e proprie. Fabio da Bergamo ci scrive: se tengo le gomme estive e tengo le catene da neve in auto, va bene lo stesso? Assolutamente sì, questo è equivalente. Pneumatici invernali o, dice la legge, in alternativa estivi con catene a bordo pronte per essere montate ovviamente, e devono essere, un piccolo passaggio, devono essere ovviamente idonee a quel veicolo, non nelle prime catene che ho trovato nel bagagliaio o nel baule anche o Christian, nel box. Anche Christian, esatto, le praticamente catene a prova di montaggio della Rosciani, perché io veramente preferisco cambiare le gomme piuttosto. Tu le cambi, tu metteresti le gomme sulle le catene sulle gomme? Ma certo, guardami. Sei pronta? Ma certo. No, adesso perché è facile. Perché non fate un piccolo video? Questo sul vostro sito? No, perché noi ci occupiamo di pneumatici, non ci occupiamo di catene. Le catene hanno una loro associazione, quindi a ognuno il suo. Ognuno il suo. Ottimo. Vedi? 30 secondi prima di salutarla, dottor Bertolotti, e di rinviare l'appuntamento alla primavera, l'ultima raccomandazione da fare ai nostri ascoltatori che sono in procinto di fare questa operazione con grande senso di responsabilità, a prescindere dalla città in cui abitano? I pneumatici non sono tutti uguali, sono neri, sono tondi, magari anche sporchi, ma non sono uguali. Il consiglio è orientarsi verso marche cosiddette premium, le marche conosciute. Non apriamo il capitolo cinese supermercato, da quello che capisco. No, molto semplicemente orientatevi e fate un confronto reale di prezzo, vuol dire confrontate prodotti che siano effettivamente identici, perché altrimenti il rischio è di fare male, diciamo, informazione e male acquisto. Ottimo. Questo è ovviamente con tutti i crismi che questo comporta in termini di marcature e quant'altro. Ultima cosa, occhio all'etichettatura. Come i frigoriferi, le gomme hanno un'etichettatura, quindi confrontate le prestazioni che sono in etichetta. Pensavo una classe energetica. Grazie a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, www.pneumaticisottocontrollo.it. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, buon viaggio a tutti, grazie. Buona giornata. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Allora, ci muoviamo anche noi per affrontare la seconda parte di Cuore Denari. Sono le 11.22, ma muovetevi anche voi. Mano alla cornetta, come dice Deborah, per prenotare i vostri interventi al nostro numero verde 800 24 0024. Se volete muovere i fili del diabete, come suggerisce lo slogan della giornata di quest'anno, che vi anticipiamo naturalmente per darvi modo di organizzarvi e magari ritagliare nella vostra agenda uno spazio per partecipare all'iniziativa in programma su tutto il territorio, che potrete conoscere sul sito Giornata del Diabete. A proposito di sito, sul nostro sito abbiamo un questionario che permette di valutare il rischio di sviluppare il diabete. Sono delle domande molto semplici per avere un quadro più chiaro della situazione, quindi se volete parlare con noi non avete che da muovere un dito, ma potete anche muovervi e andare a valutare il vostro rischio di sviluppare il diabete compilando il questionario. Intanto l'ospite di oggi è tornato a trovarci, il dottor Stefano Genovese, responsabile della diabetologia e malattie metaboliche del gruppo Multimedica di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Dottor Genovese, iniziamo a conoscere da vicino il protagonista di questa giornata. Ci aiuti a fare una sorta di carta d'identità, nome, residenza, età di insorgenza, segni particolari? Il protagonista purtroppo è il diabete mellito. Domani è la giornata mondiale del diabete e come ogni anno siamo qui a cercare di sensibilizzare tutti su questa patologia che sta diventando, ahimè, protagonista non solo nel mondo occidentale, in quello in cui viviamo noi, ma anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo. È una patologia cronica, soprattutto il diabete di tipo 2, che compare nella mezza età, se vogliamo definirla così, che si è caratterizzato dall'aumento del glucosio, quindi da questa sostanza che viene chiamata, diciamo, gli zuccheri che circolano nel sangue, che sono il carburante principale del nostro organismo. Questo aumento, se non controllato, può fare danni al serbatoio che contiene questo materiale, questo glucosio, che è il circolo sanguigno, quindi fare danno ai vasi sanguigni, sia ai piccoli vasi sanguigni degli occhi piuttosto che ai piccoli vasi sanguigni del rene, ma anche ai grossi vasi sanguigni che irrorano il cuore e il cervello. E quindi purtroppo il diabete, se non ben controllato, può essere una delle principali cause di infarto e di ictus. Dottore, il numero delle persone con diabete è aumentato in modo significativo, addirittura raddoppiato negli ultimi 30 anni, e si prevede che i numeri continueranno a salire, assumendo un po' le dimensioni di una epidemia. Come possiamo spiegare, come ci può spiegare questo aumento continuo? Ci sono varie interpretazioni. Per quanto riguarda il cosiddetto mondo in via di sviluppo, ad esempio in Asia si prevede un aumento enorme del numero di casi di diabete nei prossimi anni, sembra essere dovuto a questo concetto che viene chiamato l'occidentalizzazione di questi paesi, quindi la possibilità di avere accesso a cibo, anche a cibo quindi cui magari si mangia male troppo e ci si muove poco, insomma è una malattia del benessere. Ritorniamo subito sempre lì. Però, dottor Genovese, noi qualche cosa dobbiamo fare, no? Muovere i fili del diabete vuol dire anche intervenire subito, non perdere tempo, arrivare presto alla diagnosi, e questo significa evitare il rischio di sviluppare complicanze. Noi oggi, e lo sottolineiamo ai nostri ascoltatori, vogliamo parlare alle persone con diabete. Ci sono delle novità, ci sono dei consigli che il dottor Genovese può darvi per tenere sotto controllo la malattia e quindi evitare le complicanze. Il diabete si può anche evitare. Per questo abbiamo messo un questionario per valutare il rischio di sviluppare diabete. 800 24 00 24, possiamo farcela, ma dobbiamo farlo presto, non solo perché abbiamo tempo sino alle 12 per porre le nostre domande al dottor Genovese, ma proprio perché arrivare presto vuol dire cambiare la nostra salute. Dottor Genovese. Assolutamente corretto, presto, perché il diabete è una malattia subdola, l'aumento del glucosio nel sangue non dà sintomi, a meno che non siano dei valori estremi molto alti, per cui non dà segno di sé. Bisogna identificare quindi quelli che sono i fattori di rischio che predispongono al diabete, come una familiarità per diabete, l'essere in sovrappeso oppure avere la pressione alta, e andare a cercare il diabete nelle persone che hanno queste caratteristiche. L'identificazione precoce della malattia ci permette di agire precocemente. Come? Sicuramente la base del trattamento del diabete mellito di tipo 2 è quello che noi chiamiamo i cambiamenti dello stile di vita, quindi fare attività fisica, assumere una alimentazione regolare e bilanciata, e nel caso ha ridotto introito calorico, nel caso ci sia sovrappeso. Questo rappresenta tra l'altro l'approccio migliore per prevenire il diabete. Ci sono dati molto interessanti clinici, di cui parleremo, dottor Genovese, subito dopo i mercati, perché lasciamo la linea naturalmente a Deborah. Dottor Genovese, possiamo naturalmente invitare i nostri ascoltatori a chiamare il nostro numero verde per raccontarci se hanno effettuato un esame che molto semplice, che permette di avere subito un quadro della situazione. Qual è, dottore, e quali valori dobbiamo sperare di avere? Allora, la glicemia deve rimanere al di sotto di 110 mg decilitro al mattino a digiuno, in condizioni di digiuno, e l'emoglobina glicata, che è un parametro che rappresenta la media delle glicemie degli ultimi tre mesi, deve rimanere al di sotto del 6%, anzi del 5,8%. Questi sono i nostri obiettivi. È ovvio che, come dicevo prima, le persone a rischio devono fare questi esami per andare a identificare la presenza eventualmente di alterazioni che possono darci indicazioni sulla presenza o meno della malattia. 110 a digiuno, il valore della glicemia, molte persone hanno un valore leggermente superiore, sono in quella che possiamo definire una zona grigia. 800 24 00 24, chiamateci, andate a vedere sulla nostra pagina il questionario, il FinRisk, per sapere se siete potenzialmente a rischio, ma chiamateci se avete ricevuto una diagnosi, siete quindi persone con diabete, per confrontarvi con il nostro esperto, per raccontarci come state vivendo e affrontando questa malattia. Mercati, Deborah? Sono pronta. E poi di nuovo insieme. A tra poco. Cuore e denari. Sono poco di zucchero, la pillola va giù. Allora, siamo tornati, oggi parliamo di diabete in occasione della giornata che si celebra domani, parliamo di prevenzione, perché il diabete si può evitare, ma anche di gestione e di controllo della malattia. Allora, chiamateci, raccontateci la vostra vita con il diabete, siete riusciti a costruire una buona convivenza, quali sono i problemi che dovete affrontare e quelli ai quali non siete ancora riusciti a dare una soluzione. Il nostro ospite, il dottor Stefano Genovese, che è in linea con noi, a vostra disposizione per darvi consigli, aggiornarvi sulle novità, ma naturalmente ci aiuterà anche a fare prevenzione, a capire come è possibile evitare il diabete. Prevenire, lo sappiamo, è sempre meglio che curare. Dottor Genovese, siamo talmente abituati a sentirci dire che l'attività fisica è preventiva, e l'ha già accennato anche lei, e che lo ripetiamo a memoria, ma ci dia una buona ragione per passare dal dire al fare. L'attività fisica è preventiva, ma aiuta anche le persone con diabete. Assolutamente sì, come dicevo prima, è dimostrato da studi clinici molto importanti pubblicati sulle più importanti riviste mediche che un approccio basato su dieta e attività fisica riduce il rischio di sviluppare diabete in modo più importante rispetto ad esempio a un trattamento farmacologico. Come fare attività fisica? In questo studio si proponeva di fare almeno 150 minuti a settimana, che sono 2 ore e mezzo a settimana fondamentalmente. Non tutte insieme, ovviamente, sarebbe meglio distribuirla su 4-5 giorni, ovviamente 150 minuti diviso 5 giorni sono una mezz'oretta di attività fisica al giorno, ma si può anche, per visti gli impegni delle persone nella nostra vita quotidiana, soprattutto frenetica nelle città, anche a dividerla in 3 attività da 45-50 minuti ciascuna. Ovvio che l'attività fisica deve essere diversa in relazione al tipo di soggetto. Se una persona non è mai fatto attività fisica, non è abituata, dovrà iniziare con una semplice camminata a passo svelto che può svolgere chiunque. Se una persona è già abituata a fare attività fisica, il suo impegno potrà essere maggiore. Per quanto riguarda la dieta, in questi studi a cui facevo riferimento, l'obiettivo era quello di ottenere una riduzione del peso corporeo di almeno il 7%, il che significa per una persona di 80 kg di perdere circa 5 siamo kg. Siamo qua con Deborah che fa di perdere circa 7 kg insomma. Ci sono tanti luoghi comuni, leggende metropolitane sul cibo. Allora, mangiare dolci fa venire il diabete? Al 349-238-6666 ci scrivono, dottor Genovese. Ora, diciamo che mangiare i dolci saltuariamente può fare anche bene alla nostra psiche. Certo. Mangiare i dolci quotidianamente non fa bene al nostro organismo, sicuramente. Certo, bisognerebbe, se si ha rischio di diabete, evitare gli zuccheri semplici cosiddetti, quindi gli zuccheri, lo zucchero, ad esempio, che si usa nel caffè, ma che sono anche gli zuccheri contenuti nei dolci. Invece bisogna assumere gli zuccheri completi. Gli zuccheri complessi sono un'importante fonte di energia per il nostro organismo, anche per le persone con il diabete. Gli zuccheri complessi sono la pasta, il pane, le patate, i cereali in genere. Ovvio, vanno ovviamente alternati, e cercando di utilizzare ogni tanto anche magari dei cereali come l'orzo, il farro. Noi abbiamo questa tradizione, ad esempio nel centro Italia, delle zuppe a base di orzo, di farro, che sono molto molto molto molto favorevoli per la dieta di una persona con diabete. Allora, direi che le domande dei nostri ascoltatori sono tante, andiamo alla voce ai nostri ascoltatori e quindi... Benissimo, ascolta, prima di quelli che sono in onda, darei la parola virtualmente a Paola, perché ci scrive un bel messaggio, ci racconta di sua mamma che ha il diabete ed è in sovrappeso. Io sono magra, dice Paola, sempre in movimento, però durante la seconda gravidanza, dottor Genovese, ho avuto il diabete, ora è passato, sono a rischio, mi fa un po' paura questa prospettiva perché mia mamma, dice, non sta mai bene. Allora, bellissima domanda, ringraziamo Paola per averci dato questo spunto, dottor Genovese. Allora, la risposta è secca, sì, è a rischio, però dobbiamo caratterizzare questo rischio, è maggiormente a rischio di una sua parietà che non ha una storia familiare di diabete, quindi che non ha la mamma diabetica e che non ha avuto un rialzo della glicemia durante la gravidanza. Ovviamente per Paola sarà ancora più importante attuare quei cambiamenti dello stile di vita di cui parliamo prima, quindi il fatto che lei sia magra, che corra, che si dia da fare e che non aumenti di peso è l'approccio esatto, corretto per prevenire la malattia. Però sì, purtroppo la risposta è che lei ha maggior rischio rispetto a una persona della stessa età che non ha una familiarità per diabete. Allora, dato che Paola ha sottolineato un rischio, andiamo a sentire la nostra scheda, dato che vogliamo lavorare sulla prevenzione, ma naturalmente se siete persona con diabete restate perché parleremo anche di educazione per imparare a convivere con la malattia. Sentiamo la nostra scheda che sottolinea i rischi. Se hai più di 45 anni, la pressione è alta, grassi nel sangue elevati, hai avuto il diabete in gravidanza o hai partorito un bambino di peso superiore ai 4 kg. Se sei in una famiglia di diabetici, in sovrappeso o obeso, sedentario, poco attento alla tua alimentazione. Allora, dottor Genovese, intanto che invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi, se si ritrovano descritti in toto o in parte in questo profilo, esploriamo anche il fattore tempo. Quanto tempo ci mettono questi fattori di rischio a procurare la malattia? Quanti anni di sovrappeso, di pressione alta, di colesterolo buono basso, di glicemia borderline ci vogliono per trasformare il rischio in malattia? Non esiste un tempo definito in assoluto, dipende da quanto è in grado l'organismo di contrastare queste condizioni. Queste condizioni che abbiamo descritto, il sovrappeso, l'aumento della pressione arteriosa, sono caratteristiche di una condizione che viene chiamata insulinoresistenza, cioè l'incapacità dell'organismo di rispondere adeguatamente allo stimolo dato dall'insulina. L'insulina è l'ormone che fa in modo che gli zuccheri vengano utilizzati nel nostro sangue, che il carburante agisca adeguatamente. Se io sono in grado di secernere un'adeguata quantità di insulina che contrasta questa insulinoresistenza, non avrò il diabete. Nel momento in cui questa produzione di insulina non sarà più adeguata, io svilupperò purtroppo l'iperglicemia e quindi il diabete. Questa carenza di insulina è in qualche modo geneticamente determinata e quindi ogni persona fa caso a sé. È ovvio che quelle condizioni che sono state descritte dalla scheda e che io ho definito come condizioni che caratterizzano il quadro di insulina resistenza sono condizioni che non vanno sottovalutate. Ecco che se io attuo le strategie di cui abbiamo parlato prima, dieta, attività fisica, si riduce il peso corporeo, si può ridurre anche leggermente la pressione arteriosa e si riduce l'insulina resistenza, per cui io ridurrò il rischio di poter incorrere nella malattia. A proposito di attività fisica, possiamo dare come indicazione che non devono passare più di 2 giorni consecutivi senza fare movimento? Come diceva nonno Libero, no? Un giorno senza fare nulla è poco, 2 sono troppi. Ovviamente dobbiamo fare i conti con la nostra vita. Se io discuto, magari se mi si presenta in ambulatorio il classico o la classica manager, non facciamo distinzioni, che dice io sono impegnata, ho 1000 attività, posso dedicarmi solo 2 o 3 volte alla settimana all'attività fisica, ben venga. Va bene. Ben venga, meglio niente, questo che niente. Dice? Non so, a Milano dicono piuttosto che niente, ma è piuttosto. Meglio per esatto, tosse. Meglio noi tra una esatto. mezza piemontese siciliana e una marchigiana. No, non no, non cimentiamoci nel dialetto allora, milanese. Allora, abbiamo Lorenzo. Sì. Poi abbiamo Francesco e Ileana. Da allora, chi partiamo? Ma sì, dai, diamo sempre la precedenza alle signore. Partiamo da Ileana da Roma. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Intanto sono onorata di parlare con il dottor Genovesi. E quello che faccio la domanda è questa. Io ho un figlio di che ha preso il diabete da 3 anni, ce ne siamo accorti e va bene. Ed è coinciso con la nascita del bambino, quindi ha un bambino di 3 anni. Soltanto che mio figlio è molto molto magro, quindi non riusciamo a tenerlo, diciamo, in una certa... E non ha accettato questa malattia, probabilmente. Sì, sta attento, mangia diversamente, però sgarra molto con il fattore colazione della mattina e quindi si ferma al suo bar, si prende... Assolutamente ha bisogno di un cornetto. Il ma cornetto a Roma come si fa? Come aspettando si fa? Comunque di vedere intanto di che si tratta la glicemia mattutina, perché se ce l'ha alta aspetta 2 ore, quindi... È un giro vizioso che non fa bene al suo organismo in quanto è magro, molto magro. Il fatto anche di prendere dei farmaci, che per esempio lui prende molto spesso dei raffreddori, delle influenze, perché non ha proprio difesa fisica secondo me, anche lì devi vedere le medicine, allora la tachipirina alza il diabete, insomma è vero che insomma, questa cosa è una situazione un quella che ci descrive Leana complessa e mi sembra che il figlio di Leana che ha questo compagno di vita da soli 3 anni ha una certa difficoltà, no, a stabilire una serena convivenza. Ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico con il nostro esperto, a tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e denari. E vado su, e vado giù. Diabete è una malattia complessa che sta aumentando e assumendo i numeri di una vera e propria epidemia. Ne stiamo parlando oggi in occasione della giornata mondiale del diabete. Rispondo subito a Stefano da Rimini che ci invita a dare informazioni corrette. Fa bene, ma Stefano, forse lei, magari noi non io non ho specificato, no. Ma l'ha fatto molto bene il dottor Genovese. Stiamo parlando di diabete mellito, di diabete di tipo 2, che è una malattia assolutamente diversa dal diabete di tipo 1. Dottor Genovese. Certo. E naturalmente perché Stefano dice che il diabete di tipo 1 giustamente quando arriva non è colpa dello stile di vita, non lo puoi prevenire. Giustissimo, giustissimo. Infatti abbiamo nella Stefano premessa da Rimini, all'inizio della trasmissione abbiamo Stefano detto che stiamo parlando di diabete di tipo 2. Sì, ma Stefano non aveva colto, ma Stefano è molto preparato, per cui grazie per averci mandato un messaggio. Noi andiamo da Francesco che ci chiama dalla provincia di Latina. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Grazie per avermi chiamato. Eccoci qua, che ecco ci racconta? Qua. Volevo porre il mio problema al professore che mi sfugge il nome. Sì, dottor Genovese. Dottor Genovese, sì. Genovese, esattamente. Senta, io ho un problema. Quando vado a fare le analisi ai laboratori la mattina, che generalmente va a finire alle 8:15, me lo trovano alto. Mentre tutto l'anno la ricerca che faccio io a casa, perché essendo stato un analista chimico mi faccio anche delle statistiche, non supera mai 100, sempre regolare, prima pranzo, dopo pranzo, 2 ore dopo, è sempre nei limiti. La emoglobina glicata è sempre 5,8, 5,9, solo quando vado in laboratorio mi si alza. Sono ansioso e la pressione mi fa lo stesso effetto. Ah, infatti stavo anch'io pensando lo stesso paragone della pressione. Allora, ringrazio la signora per la domanda. È un Francesco. Pronto? Sì, Francesco dalla provincia di Latina, sì. Per la domanda, perché ovviamente introduce un concetto molto interessante. La glicemia è un parametro che si eleva in condizioni di stress. E quindi tutte le condizioni che determinano uno stress fanno alzare la glicemia. poi la glicemia scende spontaneamente, per cui in presenza di una influenza, di una malattia concomitante, la glicemia sale. Quindi quando si va a fare il prelievo c'è una condizione così di agitazione, perché magari si è in ritardo, non si è trovato il parcheggio all'ospedale, perché si è in ritardo, perché sono in ritardo a chiamare i pazienti, si può essere un transitorio aumento della glicemia che poi ritorna ai valori abituali. Volevo fare un commento sulla domanda della signora Eleana di prima, del figlio che è un soggetto magro. Questa è una domanda molto interessante e introduce un concetto importante. La maggior parte dei pazienti con diabete di tipo 2 sono in sovrappeso. C'è una quota minoritaria di pazienti che sono magri e in questi pazienti bisogna escludere che non ci sia la presenza di un diabete di tipo 1 ad esordio in età adulta. Il diabete di tipo 1 è il diabete che compare solitamente in età giovanile, infantile, che è dovuto alla distruzione delle cellule che producono insulina, che ovviamente obbliga all'utilizzo della terapia insulinica. Esistono alcune forme di diabete tipo 1 che possono comparire anche in età adulta, hanno un andamento meno aggressivo di quello che colpisce i bambini, i ragazzini, ma va cercato, ci sono delle indagini apposta, per cui il suggerimento che darei al figlio della signora Eleana è di andare dal proprio diabetologo, dal proprio medico, per chiedere di fare degli accertamenti per escludere che non ci sia una forma di diabete di tipo 1 ad esordio in età adulta. Questo è un aspetto molto importante. Dottor Genovese, lei ha sottolineato che bisogna fare presto, subito, non bisogna lasciare passare il tempo. Allora, misuriamo la glicemia. Chi dovrebbe, e a partire da che età sarebbe necessario, dovrebbe farlo? Allora, le nostre linee guida dicono che ovviamente la glicemia va misurata nelle persone che hanno un aumentato rischio anche in età, diciamo in età adulta, anche inferiore ai 45 anni. Sopra i 45 anni un controllo della glicemia saltuario ogni 3 anni è più che sufficiente, se non ci sono dei fattori di rischio per la malattia. A volte i valori della glicemia rientrano in quella che possiamo definire una zona grigia, non sono ancora tali da fare diagnosi di diabete, ma si spostano dai 110. In questi casi, dottor Genovese, quali sono le indicazioni? Insistere cambiando stile di vita e quindi combattendo la sedentarietà e facendo una dieta equilibrata, mirata? Tra l'altro c'è un bellissimo studio sulla dieta mediterranea, dottor Genovese, se vogliamo poi ricordarlo, ma certo. Occupiamoci della zona grigia. La zona grigia, come giustamente ha detto lei prima, è una condizione che definisce uno stato di rischio, che quindi va gestito, come abbiamo detto prima, con un approccio basato sugli stili di vita. L'obiettivo è quello di fare ridurre i valori di glicemia o di emoglobina glicata. Se la emoglobina glicata sale al di sopra di 6 ma rimane al di sotto di 6,5, è una condizione di rischio che va gestita, come abbiamo detto prima, con gli stili di vita e va monitorata, per cui questi pazienti vanno fatte dei controlli un po' più assidui. Ecco, cosa vuol dire controlli un po' più assidui? Perché almeno controllare una volta, delicato, controllare almeno all'inizio ogni 6 mesi la glicemia per confermare questa condizione e poi annualmente, anche perché i soggetti in questa zona grigia sono soggetti che hanno un aumentato rischio di eventi cardiovascolari rispetto alle persone con glicemia normale. Quindi in questi soggetti è bene anche andare a valutare gli altri fattori di rischio cardiovascolari, come il colesterolo, come la pressione arteriosa, perché devono essere controllati, perché è dimostrato che sono a maggior rischio di eventi cardiovascolari. Allora, abbiamo Lorenzo, qui non riusciamo a dare la linea perché tra poco dobbiamo passare al GR, che chiedeva se ci sono alimenti che possono far insorgere il diabete, dottor Genovese, così chiudiamo. Allora, alimenti singoli no. È un uso inadeguato di alcuni alimenti, quindi come dicevamo prima, certo. una dieta squilibrata, eccessivamente calorica, con troppi zuccheri semplici, può, diciamo così, favorire la comparsa del diabete, che però compare non per queste patologie, ma per delle condizioni predisponenti del soggetto, per una sua familiarità, per una sua genetica. Come avevamo detto prima, come lei ha accennato prima rapidamente, 2 anni fa è uscito un bellissimo lavoro, non su soggetti diabetici, ma su soggetti... Sì, dieta mediterranea con olio e noci, vero dottore? Questa è l'indicazione. Questo studio che perché dobbiamo salutare, perché c'è il GR, salutiamo anche il dottor Genovese. La richiamiamo presto.